pensare che oggi è davvero così dura, ma siamo angeli in mezzo a un tango, e come sarà la mia faccia stanca? Sarà una notte nei vicoli, ho una canzone da fare a pezzi, e su una tavola tra due montagne io toccherei la tua pelle bianca. Come un disperato senza te impazzirei, lo vedi che non ragiono male, se trovo una moto ti porto in città. Ti sei mai chiesta come mai io ti voglio tanto bene, che questo amore pulito e lo sai che non lo cambio, mi puoi rispondere con un ciao, e se tra vent'anni mi telefonerai, sarò là dove il mare luccica, la notte è sempre uguale, non c'è la tua mano che mi cerca, c'è più Milano da carezzare. Mi chiedo ancora come mai non hai più preso quel treno, avrei viaggiato solo con te, ti avrei amato più forte che mai. Il mare luccica, la notte è sempre uguale, non c'è la tua mano che mi cerca, non c'è più Milano da carezzare. Mi chiedo ancora come mai non hai più preso quel treno, avrei viaggiato solo con te, ti avrei amato più forte che mai.